Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua al nostro appuntamento. Ormai insomma siamo alla fine dell'anno e stiamo cercando anche di fare un po' un bilancio di questi primi 12 mesi, di questo primo anno di programma. Si può fare. Cronache da un paese migliore, abbiamo cercato, diciamo sempre noi con il lanternino, le buone notizie ma anche le nuove tendenze che ci salveranno, le cose che normalmente sui giornali non si fila mai nessuno ma che invece poi ci possono aiutare a vivere meglio, a stare meglio. Una ricerca che speriamo vi abbia anche interessato, vi ricordo, credo di sì dai vostri commenti insomma in questi primi mesi, vi ricordo che tra qualche giorno, saremo più precisi più avanti, ci sarà anche una specie di concorsone, vi proporremo di votare le storie migliori che vi abbiamo proposto e così per fare un po', tirare un po' le fila e vedere anche se abbiamo colpito nel giusto, e si vinceranno anche dei premi. Per il momento non possiamo dire niente di più. Oggi sarà una puntata particolare, abbiamo in studio con noi un ospite che ci è venuto a trovare, lo salutiamo subito intanto, Daniel Tarozzi, giornalista. Buongiorno a tutti. Daniel, benvenuto. L'avete già sentito dai microfoni di Si Può Fare, perché quest'anno in un paio di occasioni, tre forse anche, lo abbiamo ospitato in alcune puntate, perché lui sta conducendo un viaggio in Italia, l'Italia che cambia, che è diventata anche un blog, dietro c'è anche un sito, lui è direttore di questo sito, adesso poi diremo tutto con calma, piano piano, un viaggio in 30 secondi, intanto come lo definiresti questo viaggio, Daniel? È un viaggio alla ricerca delle persone che hanno deciso di assumersi la responsabilità della propria vita senza aspettare che qualcun altro lo faccia al posto loro, questo ecco. Per dirlo in 30 secondi. E questo è proprio in linea perfetto con tutto quello che abbiamo cercato di fare anche noi, al chiuso però di questo studio, insomma dalla redazione di Radio 24 a Milano, ci piacerebbe magari ogni tanto venire anche noi in viaggio, però lo spirito è proprio questo che abbiamo cercato di avere anche noi, cioè andare a cercare le storie delle persone che si danno da fare, si rimboccano le maniche, con soluzioni a volte proposte, originali, creative, non per sottovalutare, questo almeno per quanto riguarda il nostro tentativo, Daniel, lo dico anche agli ascoltatori, i problemi che ci sono reali, le difficoltà che si affrontano, che non si risolvono magari a volte con gesti isolati o con trovate o con scelte di vita particolari, ma che però dimostrano, denotano anche la vitalità, se vogliamo dirla alla grande, di un popolo, e questo è importante. E tu mi pare di aver capito che questa vitalità l'hai trovata. Cominciamo un po' così a allargare il cerchio in questo senso. Che umori, che cosa hai trovato in questi mesi? Quanti mesi sono intanto? Esatto, io sono partito da tre mesi e mezzo, il 9 settembre, sono circa a metà del viaggio. Ho visto circa 10 regioni, un po' tutto il nord, la Sardegna, la Toscana, l'Emilia Romagna. E quello che ho trovato è che esiste un'altra Italia, oltre a quella raccontata normalmente dai mass media. Un'Italia fatta di gruppi, di persone, di individui, di imprenditori, associazioni, donne e uomini che, con tutte le difficoltà immense che comporta questo periodo storico, comunque cercano e spesso riescono a vivere in modo diverso, a ottenere anche grandi risultati. E questo da tanti punti di vista, chi dal punto di vista lavorativo, chi dal punto di vista dell'abitazione, chi dal punto di vista politico, sociale. Ho incontrato persone che fanno un grande lavoro con i disabili, con i minori, questo i temi ambientali. Un tema, questo dei disabili, di cui si parla pochissimo in generale, sembra un po' l'angolo buio, no? Il punto oscuro, il punto nero, dove si fermano anche le politiche sociali, perché per esempio sul disagio mentale io ho anche delle esperienze dirette mie personali, non mie personali, ma insomma sì, personali, nella mia famiglia. E questa è una cosa di cui non si parla mai. Tu facevi riferimento ai mass media, insomma, noi come il nostro piccolo proviamo a parlarne cercando di interessare anche la gente. Però ecco, questa cosa che hai toccato per me è molto importante, la questione della disabilità. Sta cambiando la percezione, sta peggiorando, cosa ci anche racconti qua, tutto parliamo punto di vista? Di un tema che è molto problematico e non voglio certo sminuire le enormi difficoltà che chi ha dei disabili in famiglia ben conosce. Detto questo, va anche riconosciuto che, soprattutto se si parla di disabilità psichica, negli ultimi anni sono stati fatti dei grandi passi. Se pensiamo solo, sono stato all'ex Paolo Pini qua a Milano, per esempio, sì, e mi hanno raccontato, perché Milano, perché di Milano è scontato, ma per me che venivo da Roma, scoprire che è un luogo del terrore, come poteva essere questo manicomio, è diventato oggi un luogo di accoglienza dove vengono fatti, certo, concerti, attività culturali, e dove gli stessi ex malati oggi lavorano, è meraviglioso. Ma anche ho incontrato, soprattutto le esperienze che mi hanno colpito di più in questo senso sono quelle di vera integrazione. Per esempio in Liguria ho visto una serie di attività dove i disabili lavorano a tutti gli effetti, quindi vengono responsabilizzati e soprattutto vengono vissuti come una risorsa, quindi non solo come qualcuno da aiutare perché siamo buoni, ma come qualcuno che può aiutare noi stessi. Certo. Queste persone, una volta responsabilizzate, diventano più autonome. Ovviamente vanno seguite con dei percorsi, non va mai banalizzato il tema. Questo è un tasto importante, perché lo dico per gli ascoltatori, perché so a volte spesso le semplificazioni che si fanno, no? Si brutalizza un po', insomma, alla fine, ma perché bisognerebbe investire così tanto se ci sono delle situazioni che vengono ritenute perdute, tra virgolette? A parte che quando si parla di persona umana, di perduto non c'è mai niente, non si dovrebbe mai fare un discorso di contabilità, ma anche volendo fare un discorso di contabilità, invece, ogni investimento fatto nel rendere autonoma una persona disabile, per esempio, non abbiamo idea di quanto ci fa risparmiare in termini di servizio sanitario nazionale, di costi, di degenza e di robe assurde che invece si potrebbero evitare con delle politiche che però vanno fatte, e che, come dicevi giustamente tu, in Italia sono state anche fatte in questi anni. Milano, il Paolo Pini, per esempio, dimostra un percorso che c'è, però insomma di strada da fare ce n'è tantissima. Un altro episodio che voglio raccontare è quello dell'ex sindaco di Pontedera, che per un attimo era diventato famoso un po' di anni fa perché aveva fatto un giro con una carrozzella per tutta la città per provare a muoversi, e aveva scoperto quanto la mobilità fosse impossibile all'interno del suo paese. Anche questo sembra un tema scontato, ma poi così scontato non lo è. Lui ci raccontava che quando ha fatto fare una nuova piazza ha detto: questa prova di bomba l'hanno fatta gli architetti, loro gli hanno detto prova, ha provato e non riusciva a muoversi, e così l'ha fatta rifare. Anche queste sono cose importanti da dire, e da qui non solo sul tema dei disabili. Esistono amministratori straordinari a livello locale che spesso non vengono rappresentati. Anche qua la politica viene vista solo come quella delle ruberie. Questo è vero, ed è anche questo un mea culpa che deve fare sicuramente, che dobbiamo fare noi tutti i giornalisti, la stampa, io personalmente forse un po' meno di altri, perché per quanto ci riguarda, lo ridico, queste cose cerchiamo di raccontarle e di dirle. Io dico sempre: se notizia non è il cane che morde l'uomo, ma l'uomo che morde il cane, questo lo insegnano nei manuali di giornalismo all'inizio. Allora oggi, con tutto il casino che c'è a livello di crisi economica, ma anche la questione della denuncia della casta politica, andare a cercare con il lanternino le buone amministrazioni, che poi sono più che meno, spesso a livello locale sono tante, diventa un'operazione che ha un significato anche giornalistico, anche di notizia, perché forse c'è un rovesciamento delle prospettive da questo punto di vista. Prima di andare in là, sempre coi temi, Daniel Tarozzi, direttore di un sito. Allora, prima di tutto, questo viaggio, italiachecambia.org, si trovano lì il blog con le notizie relative a questo viaggio che stai affrontando, sei giunto a metà. Ne parleremo moltissimo, naturalmente, ancora. Direttore, però, in partenza già di un altro sito, ilcambiamento.it. Il cambiamento.it è un giornale web, insisto sul termine giornale, sì, perché è una testata giornalistica registrata con tutto ciò che comporta a livello di responsabilità anche civile e penale, quindi spesso ci dicono è un blog, è un sito, ma in realtà no, è un vero e proprio giornale, nonostante non abbia un'edizione cartacea, e nasce anche qui dall'insoddisfazione per il modo in cui la maggior parte dei quotidiani racconta l'Italia. Noi siamo insoddisfatti proprio dell'agenda, cioè dei temi che vengono rappresentati. Cioè, secondo noi, continuare ad aprire le prime pagine con dichiarazioni di questo o quel politico o cronaca nera, piuttosto che spread qua, spread là, non è raccontare la vita reale delle persone. Si presume che siano cose che interessino i lettori. Poi i giornali continuano a perdere copie, però nessuno mette mai insieme le due cose. Non lo so, ma lasciamola lì. Prego, Daniel. E per questo noi, nel nostro piccolissimo, con le poche risorse che abbiamo cercato di costruire un giornale che abbia un'agenda diversa, che quindi non è un giornale nella nostra intenzione di nicchia, non è un giornale ambientalista, un giornale sul sociale, è un vero e proprio, secondo noi quella è l'agenda, cioè per noi aprire su il consumo del territorio è fare sì che non ci siano disastri idrogeologici, per cui piuttosto che piangere dopo, quando ancora una volta ci ha fannato la Liguria. A me ha colpito una cosa straordinaria, scusa se ti interrompo, perché qualche settimana fa, adesso il governo non esiste più, il governo Monti, ma il ministro Catania aveva portato in Consiglio dei Ministri un disegno di legge, naturalmente da approvare, tutto quello che volete, contro il consumo di suolo, una cosa importantissima, e pochi giorni prima c'era stato l'anniversario della Liguria, le Cinque Terre, e un'alluvione, mi pare forse in Toscana. E sui giornali, io avevo letto questa notizia sulle agenzie in ANSA e non riuscivo a trovare la notizia di questa cosa qua. Tutti parlavano del dibattito tra Bersani e Alfano, mi pare che all'epoca fosse sulla data delle elezioni, sì, su qualcosa. Ed era una cosa veramente, cioè mi faceva star male, perché dico, ma non è possibile che muoiono delle persone ogni volta. Sappiamo benissimo che dipende da anche dal consumo di suolo. Il governo approva una misura, per quanto un disegno di legge da approvare in Parlamento, però è un passo in avanti. Non c'era traccia di questa notizia, una cosa desolante. Sì, questo secondo me nasce proprio dal modo in cui viene concepita l'informazione cosiddetta ambientale, cioè quando si parla di questi temi viene considerata una cosa di nicchia, pagina 36 di ambientalismo, anzi, sì. Invece è la nostra vita, l'economia, ciò che mangiamo, la salute, l'inquinamento, riguarda la vita delle persone ogni giorno molto più che una differenza tra un differenziale italiano e tedesco, insomma. Cioè, io penso che quello che noi mangiamo, oppure il fatto che ci crolla il territorio addosso, venga prima. Dovrebbe contare. Allora, ci fermiamo un attimo per la prima pausa di oggi, il traffico, e poi cominceremo a entrare un po' anche nei contenuti del viaggio. L'Italia che cambia. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in compagnia con Daniel Tarozzi, direttore del cambiamento.it, un giornale, il sottotitolo è Dal virtuale al reale, no? Ecco, un po' ce l'ha già spiegato, perché questo diciamo sottotitolo? Questo perché quando abbiamo creato questo giornale insieme all'Associazione Paea e a Paolo Ermani abbiamo deciso di concentrarci su un tema fondamentale, che è quello dell'uscire dal web, perché è vero che su internet si trovano molte informazioni, ma è vero anche che spesso si rischia di entrare nell'autoreferenzialità. Si parla su Facebook, si litiga, si odia quello, questo o quel politico, ma poi non si passa al cambiamento reale. Quindi volevamo provare a costruire una comunità che non solo denunci e proponga, ma che anche poi esca dal web e vada a incontrarsi nel reale per fare cose concrete. Questo è un po' il nostro spirito. Ecco, visto che lo hai citato Paolo Ermani, adesso lo sentiremo tra poco, perché l'abbiamo avuto ospite anche noi durante questi mesi, autore insieme a Simone Perotti del libro Prove di scollocamento. Quindi sentiremo un passaggio dell'intervista che aveva realizzato qua Si può fare, poi lo commenteremo insieme, perché questo sicuramente è uno dei temi di quello di cui stiamo parlando oggi. Cioè, in fondo ci stiamo domandando anche un po' che cosa vuol dire provare oggi a essere protagonisti del proprio presente, del proprio futuro, cercare di essere felici, cercare di inseguire il proprio benessere a livello di comunità. Sicuramente non basta misurare tutto col PIL, e lo possiamo dire tranquillamente anche dalla radio di Confindustria, che è abituata a misurare giustamente, perché quella è una parte, no, della nostra vita, tutto attraverso i numeri economici, ma anche chi fa l'economista già da un po' di tempo ha imparato che questo solo non basta. Ecco, partendo un po' da queste domande, che sono le domande che si sta facendo anche Daniel Tarozzi nel suo viaggio, e ripeto il titolo del blog italiachecambia.org se volete andare ad approfondire, uno dei temi sicuramente è quello del accorgersi a un certo punto della propria vita che forse quello che si è fatto fino adesso è sbagliato, ed è una cosa vecchia quanto il mondo, se vogliamo, mollo tutto e me ne vado, ma è qualcosa di più oggi, perché cosa si può mollare oggi? Si può mollare anche delle cose pesanti, ingombranti, come il mutuo. Si può fare a meno del mutuo, certo, facendo a meno della casa, no, al di là delle battute, si può fare a meno di questo, si può fare a meno delle rate per l'auto, si può fare a meno di fare un lavoro che non ci soddisfa. Sono cose che abbiamo imparato a sentirci dire in questi ultimi mesi, anni, anche la crisi ci sta dando una mano a fare questi ragionamenti, che sono importanti. Perché? Allora, cominciamo a sentire Paolo Ermani, dicevamo, Prove di scollocamento, che sta portando avanti, che cosa, Daniel, tu che lo conosci meglio, poi sentiamo la voce. L'iniziativa è quella di cercare di costruire un percorso che aiuti le persone che sono insoddisfatte del proprio lavoro a capire veramente quello che vogliono e a cercare di ottenere gli strumenti per ottenerlo. Sembra un paradosso in un periodo di crisi e di disoccupazione, ma non è né una colpa né un merito andare a notare che un libro come Adesso Basta, che sempre di Simone Perotti, che parla di lasciare il lavoro, in questi anni di disoccupazione ha venduto 80.000 copie. Facciamoci delle domande, perché sembra che tutti vogliano il lavoro e giustamente tutti cercano un lavoro, però poi un libro che dice io me ne sono tolto dal mio di lavoro ha venduto quasi 100.000 copie. Ci vuole un'infinita delicatezza su questo tema, certo. Perché è chiaro che ci sono situazioni drammatiche di chi non ha il lavoro, però forse il punto è bisognerebbe spostare un po' il centro dell'attenzione, ovvero forse il centro non è il lavoro in quanto tale, il lavoro retribuito in quanto tale, forse il centro è i diritti base delle persone, che sono ovviamente la casa, il cibo, l'acqua, la sopravvivenza, insomma, dignitosa. E però non necessariamente l'unico modo di ottenere queste cose è quello di lavorare 25 ore al giorno e non avere poi il tempo di viverla questa famosa vita, perché noi spesso non ci siamo resi conto negli ultimi decenni che il lavoro da strumento è diventato il fine, per cui noi viviamo intere vite esclusivamente inseguendo il lavoro e dicendo non abbiamo tempo per niente, e allora c'è qualcosa che non funziona, soprattutto in una nazione comunque cosiddetta ricca. E poi è la chiave di successo anche di esperienze come il baratto, che stanno tornando in tutte le forme, sicuramente ne parleremo perché nel tuo viaggio hai incontrato anche questo, insomma si risparmia una fetta di tempo anziché lavorare per produrre moneta da scambiare poi in altra utilità, si scambiano direttamente le utilità che abbiamo, si salta un passaggio e notevolmente si risparmia del tempo. Ma sentiamo Paolo Ermani, prove di scollocamento, e poi di nuovo con Daniel Tarozzi. Sono sempre di più e saranno sempre di più, perché questo sistema ormai è in rotta e quindi non è possibile più pensare di risolvere i problemi con vecchi metodi, tra l'altro metodi che dimostrano chiaramente di non risolvere assolutamente nulla, anzi di aggravare i problemi. Quindi le persone non solo sono tante adesso, ma saranno sempre di più, che decidono di abbandonare la nave che sta affondando. Cosa succede nei vostri incontri che fate, insomma, in giro per l'Italia per parlare di questo? Come funzionano? Chi sono le persone, per esempio, che vengono? Che età hanno? Professione? Provenienza? Le persone sono le più disparate, sono persone di tutte le età che o hanno un lavoro o lo cercano o lo vogliono cambiare, proprio di tutti i tipi. E le persone che arrivano chiedono di avere informazioni, esempi, e quello che noi offriamo sono proprio questi, esempi concreti di chi si è già scollocato e dimostra concretamente che un'altra possibilità c'è ed è praticabile da subito, senza aspettare niente, nessuno. E questo era Paolo Ermani, autore insieme a Simone Perotti di Ufficio di Scollocamento. Come giustamente faceva notare Daniel, ho sbagliato il titolo. Daniel, fra l'altro, qui entri in ballo un po' anche tu, forse, no? Perché anche il tuo è un percorso, non dico di scollocamento, adesso poi ce lo racconterai, ma un percorso che nasce da tutte queste riflessioni che tu hai vissuto sulla tua pelle in prima persona e che stai portando avanti su te stesso, prima ancora che andandola a cercare negli altri. Raccontaci appunto a questo punto un po' di te. Sì, ma lo scollocamento, che poi è soprattutto, appunto, come dicevo prima, un percorso culturale, quindi non è chiaramente vivere una vita dove non si fa niente, si ha tutto in cambio, ma magari è cercare di spostare il centro dell'attenzione. È un percorso che spesso porta anche magari a lavorare di più, ma diciamo è dove tu metti il centro e il valore. Io nel mio piccolissimo ho avuto un po' un percorso simile, perché io appena laureato venivo da Roma, sono venuto a Milano, ho trovato abbastanza un trauma facilmente subito, come tutti i romani che arrivano a Milano, che ancora oggi me li porto dietro alcuni colleghi, che è insopportabile, perché vabbè, insomma. Sì, infatti per quello vago in Italia col camper, sono disperato alla ricerca di un Eden perduto. Sono venuto a Milano, che ovviamente, come tutti quelli che arrivano a Milano, sono un po' scioccato all'inizio. In realtà poi devo dire, a parte gli scherzi, che per me è stata un'esperienza fondamentale di crescita e anche poi di costruzione di rapporti, sì, importantissimi. Comunque nel giro di un anno e mezzo avevo fatto tra virgolette carriera, per avere 25 anni, insomma, lavoravo, avevo un ottimo lavoro, ho pagato anche molto molto bene, soprattutto per un ragazzo cresciuto in periferia a Roma, e sono arrivato anche a fare l'autore televisivo con una potenziale carriera davanti che prometteva molto. Però senza voler ovviamente sputare del piatto in cui ho mangiato, diciamo che non... non faceva per me. Semplicemente non era faceva per me quello, la cosa adatta a te. Sì, io non riuscivo a ritrovarmi sia in alcune dinamiche dell'ambiente televisivo, sia nel costruire una vita veramente incentrata completamente e costantemente sulla rincorsa di 40 ore di lavoro al giorno, neanche per realizzare me stesso, perché poi non era quello. Allora, via via ho costruito un percorso dove ho cercato di lavorare a quello che mi piaceva all'inizio gratuitamente nel tempo libero e di costruire un gruppo di giornalisti, Terra Nauta, che è stato il nostro primo giornale, poi Il Cambiamento. E quindi oggi, 10 anni dopo, io guadagno un quinto, un sesto di quello che guadagnavo a 25 anni. Qualche rammarico forse da questo punto di vista? No. C'è qualche paura, sì. Qualche paura, perché spero di avere presto dei figli e come mantenerli. Però allo stesso tempo, no, rammarico alla fine no, perché la libertà sia di poter vivere dove voglio, sia di poter fare il lavoro che io amo, di poter esprimermi tramite il giornalismo in modo libero, cosa che purtroppo non è sempre semplice in questo paese, diciamo che mi ripaga di tutto ciò a cui ho rinunciato. E siamo in tanti, anche della mia generazione, a fare scelte del genere. Anche nella nostra redazione ci sono persone che hanno rinunciato a stipendi più alti, a più sicuri, soprattutto per inseguire quello che era il loro sogno, appunto, quello della libertà, sia fisica che mentale, diciamo. E quindi, insomma, ecco, per concludere un po' su questa cosa dello scollocamento, perché poi si sente giustamente dire qualcuno, se lo possono permettere, no? Quelli che mollano tutto e vanno a vivere abbronzati sulla barca, no? Fanno così, no. Poi fighi. Non è solo questo. No, il discorso dello scollocamento, se va preso in senso più ampio, va molto al di là del manager che lascia tutto, che sicuramente può essere il rappresentante. Tra l'altro va sempre detto che secondo me non è così vero che chi ha tanti soldi è più facile che molli tutto, perché ha anche molto più da perdere volendo. Comunque, certo. Lo dice uno che i soldi non li ha mai avuti, se non per 6 mesi a Milano. Però, al di là di questo, questo fenomeno riguarda tantissime persone, anche molto giovani e anche senza soldi. Io conosco, ho conosciuto e sto incontrando anche in questi mesi decine di persone da ventenni a cinquantenni che scelgono di vivere in un modo diverso e spesso lo fanno senza avere appunto alle spalle soldi e sicurezze. Ma il modo migliore in cui farlo è ridurre le spese. Quindi è chiaro che è più facile, per esempio, se sei single che se si hanno 4 figli, ma conosco persone con 4 figli che hanno fatto questo tipo di percorso, che sono andati a vivere oggi in Italia. Metà del nostro patrimonio di casa è abbandonato. Ci sono paesi, interi paesi, dove le case costano pochissimo. Chiaro che se voglio vivere in centro a Milano, certo, ho bisogno di un certo tipo ma di tenore. Ma se vai a vedere anche a Milano ci saranno sicuramente delle case abbandonate, solo che uno vuole sempre quell'altra. Esatto. E mai quella lì, non si sa perché. Però, insomma, ancora di più, se non hai un motivo specifico, se non sei realizzato nello stare a Roma o a Milano in una grande città, magari puoi trovarti una delle 1000 cittadine dove le case costano un quarto, dove puoi avere, se ti piace, un pezzo di terra da coltivare, dove puoi costruire le relazioni che spesso abbattono i costi, perché se io ho delle relazioni, certo, sociali con i miei vicini, magari mi tengono i figli e non devo pagare un babysitter, per esempio. Se io autoproduco un po' e scambio e faccio le cose, noi oggi non sappiamo fare più niente, dobbiamo pagare per tutto, sembrano cose cosiddette da fricchettoni, no? Ma poi è una realtà dei fatti. Se io devo pagare l'idraulico, sembrano cose da fricchettoni, sono 100 euro. È verissimo, perché forse perché sono nate in un certo periodo storico come ricerca fine a se stessa. Oggi però ci accorgiamo che invece sono cose utilissime. E non solo, scusa, solo una cosa, sì, su questo vorrei aggiungere. Tutte le persone che ho incontrato, e vi assicuro, di tutte le estrazioni culturali ed economiche che fanno questo tipo di percorso, stanno bene. Cioè sono più contente, spesso con grandi difficoltà. Non è che è certo, se poi misuriamo il benessere non solo sulla marca della camicia, ma sulla felicità che vedi nello sguardo di una persona, e questo lo possiamo, insomma, vedere tutti. I soldi non c'entrano nulla, c'entrano ma non sono determinanti. Fino alla base. Visto che abbiamo toccato questo argomento, adesso facciamo una pausa. Quando rientreremo sentiremo quella che è sicuramente per quest'anno possiamo definire la campionessa del risparmio, insomma, della decrescita da questo punto di vista. Lo possiamo anticipare, è stato su tutti i giornali, Stefania Rossini da Cremona che così ha ritirato fuori i vecchi metodi della nonna, come si fa a vivere con un euro al giorno. Poi Daniel Tarozzi l'ha incontrata e ci racconterà. Pausa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci ritrovati, cari ascoltatori. Oggi una puntata particolare di Si può fare. Tra l'altro, insomma, vi ricordo sempre che potete trovarci su Facebook, Si può fare trattino Radio 24. Siamo anche su Twitter, Si può fare 24. Per i più timidi c'è ancora la mail, Si può fare radio24.it. E scriveteci, entrate insomma in interazione con noi. Aspettiamo i vostri commenti, per esempio anche alla puntata di oggi in compagnia di Daniel Tarozzi, che sta conducendo un viaggio per l'Italia, e tutte le notizie di quello di cui stiamo parlando adesso le trovate sul suo blog l'italiachecambia.org. Daniel, che è anche direttore di un sito, ilcambiamento.it, dal virtuale al reale, tutte le tematiche di cui stiamo parlando oggi le trovate lì. Stavamo dicendo che insomma, alla fine stringi si va sempre a parlare di soldi, no Daniel? E però ne parlavamo in una prospettiva rovesciata rispetto a quello che si fa normalmente. Cioè, normalmente si cerca di guadagnarne sempre di più per poter fare sempre di più. C'è chi invece, quasi per, come dire, come una scommessa, cerca di dimostrare che è possibile fare il contrario, cioè spendere sempre di meno per poter fare sempre di più altre cose, cioè avere meno bisogno di soldi, quindi avere meno tempo da dedicare a un lavoro che ci porta altrove, e questo è il tema dello scollocamento, per poter fare altre cose. Naturalmente però per poter vivere con un euro al giorno, come fa Stefania Rossini da Cremona, qualcosa bisogna fare, e insomma non ci si improvvisa. Sentiamo l'intervista, che un pezzettino l'intervista che lei ci avrà rilasciato qua qualche tempo fa, e poi la commentiamo insieme a Daniel Tarozzi. Questa strada ci è saltata in mente perché comunque da un giorno all'altro mi sono ritrovata senza lavoro, avevamo un mutuo da pagare, i bambini, uno stipendio solo da operaio di mio marito, e volevamo a tutti i costi non rinunciare al nostro sogno, che era un pezzettino di orto per coltivarci biologico tutto nostro. E quindi mi sono reinventata una nuova vita pensando ai nostri avi, ai nostri bisnonni, come facevano. E ho cercato sul blog ricettine semplicissime e mi faccio tutto in casa, quasi tutto in casa. Ecco, questo orto è un po' la vostra ancora di salvezza, perché il mangiare soprattutto, ma poi credo anche il vestire, sono le due voci di spesa su cui lei riesce davvero, conti alla mano, a spendere, insomma, se non un euro, pochissimo. Ci racconti cosa fa dalla mattina quando si sveglia per mettere in pratica questa strategia di risparmio? Beh, sicuramente mi alzo presto la mattina, faccio il pane, faccio le pizze, faccio i sofficini in casa, cerco di fare tutto in casa, anche la pasta, evito di comperarla, la faccio io in casa con la farina che abbiamo. I vestiti, abbiamo la fortuna che ce ne regalano tanti le altre mamme, mm-hmm, quando li scartano, e noi li riadattiamo. Cioè lei cuce in qualche modo, allunga, stringe, accorcia, allarga, sì, poi rigira. Con l'uncinetto facciamo delle applicazioni sulle macchie delle bambine, ci applichiamo sulla macchia, invece di scartare la maglietta ci applichiamo un fiorellino fatto all'uncinetto o ritagliato da un'altra maglietta, e ci reinventiamo i vestiti. Insomma, avete sentito, è una vita anche impegnativa, ci si sveglia la mattina presto, si riscoprono le virtù dell'alba, e poi da una certa ora in poi Stefania comincia a fare tutta una serie di cose che tra l'altro la rendono felice, con la sua famiglia, i suoi bambini, mettersi a fare il pane è anche divertente, però insomma, sarà anche una vita un po' faticosa. Tu l'hai incontrata, l'hai conosciuta, cosa hai imparato per esempio tu personalmente da questa esperienza? Ma io, per me è stato un grande incontro quello con Stefania, perché io non conoscevo il suo caso, nonostante fosse molto nota, e quello che mi ha colpito più di lei è stata la grandissima forza d'animo che ho visto. Una persona che, rispetto magari a molte delle altre che ho incontrato in questo settore, ha fatto un percorso da autodidatta in tutto questo cammino, no? E che poi si è ritrovata all'improvviso testimonial di questo mondo. Quello che io ho imparato da lei è che quando si segue il buon senso e la logica, alla fine si riesce a realizzare i propri sogni, anche quasi come conseguenza. Cioè lei voleva, il suo sogno era scrivere un libro, no? E apparentemente aveva fatto la scelta più impossibile per scrivere un libro, no? Tra virgolette, quindi tornare, uno potrebbe dire, oh mio Dio, è tornata a curare la casa, i figli, tipo le femministe si inorridiscono, certo. Ha rinunciato a se stessa. E quello che mi faceva molto riflettere è questo, il lavoro nasceva come idea di emancipazione, e quindi se una persona sogna di fare la musicista piuttosto che l'imprenditrice e ci riesce, si è sicuramente emancipata, ma quando il lavoro è un uno strumento solo per sopravvivere. È veramente così un passo indietro non fare un lavoro retribuito che comunque non ti realizza, per magari dedicarti a non spendere soldi, sia che tu sia uomo sia che tu sia donna ovviamente, e cercare di abbattere i costi? Forse non è così, tanto che loro mi raccontavano sono riusciti a ridurre i costi di sopravvivenza quotidiana con due bambini di svariate centinaia di euro al mese. Poi il tema non è tanto quello dell'euro al giorno, dei 5 euro che scriveva lì. Quello è il titolo, insomma, il titolo... che forse è stato fatto anche un po' in modo provocatorio. Certo, no? Perché... è sempre forzato, io gli ho chiesto, ma ce la fate veramente? Lei onestamente ha detto no, certamente no, però con poco di più sicuramente sì. La questione di tutte queste grandi esperienze è che comunque c'è la casa di proprietà, certo, che permette, perché sennò la prima cosa che viene in mente è sì, come paghi l'affitto o il mutuo. Quindi è chiaro che questi discorsi valgono... come appunto come visione, come tendenza, però veramente loro hanno ridotto i costi di tantissimo e lo hanno fatto di fatto imparando ad autoprodurre quasi tutto e trasmettendo questa esperienza che poi ha innescato circuiti virtuosi anche di scambio sia di oggetti fisici sia di esperienze ulteriori. E quindi Stefania è diventata uno dei blogger più seguiti su internet. Sì. Perché? Perché racconta come si fanno le cose, quindi questo vuol dire che è un'esigenza diffusissima quella di... Pensate che nel giro di, non so, una, due generazioni si sono completamente perse alcune cose che invece si sono tramandate nelle famiglie per centinaia d'anni. Forse dico una banalità, ma insomma, come fare il pane o come fare tantissime cose. Saponi, come, cosmetici. Saponi, come rammendare. Adesso chi è che fa ridere, no? Ma chi è che cuce più un calzino bucato? Si butta via direttamente. Però il discorso che io personalmente faccio è questo: se uno se lo può permettere, può anche farlo. Cioè, può essere un danno per l'ambiente nel fatto di sprecare, di consumare, di sprecare, di consumare. Però, insomma, pazienza, faremo calzini sostenibili che non inquinano. Ma se uno non se lo può permettere economicamente, allora forse è bene fare un ragionamento. Conviene riprendere a imparare a cucirlo quel calzino, a aggiustarlo, perché sennò alla fine si va a sbattere. Mi ricordo, dico solo questa cosa, un giorno in un bar, racconto questo piccolo aneddoto, il barista mi spiegava che adesso tutti prendono, non mi ricordo quale cocktail, uno dei più costosi, e dice prima invece arrivavano, se arrivava, che ne so, l'operaio, l'impiegato prendeva, credo che si riferisse a un vecchio liquore che non c'è più neanche in circolazione, l'anice, qualcosa del genere. Cioè, chi aveva, se lo poteva permettere, prendeva il whisky. Ecco, una distinzione che oggi nessuno fa più, siamo tutti signori, tutti con il whisky da questo punto di vista. No, e quindi, però se uno se lo può permettere, altrimenti diventa un... Ci si indebita perché non sappiamo fare nulla. Il calzino è un costo, pensate ad aggiustare, veramente prima il famoso aggiustare le cose in casa, quanti soldi spendiamo, si rompe qualcosa e la buttiamo, non sappiamo fare veramente niente. E poi vogliamo mettere anche la soddisfazione quando qualcosa lo fai tu. Non solo, l'altro grande tema di cui parlava Stefania è quello della salute, cioè lei non è stata spinta solo da una motivazione economica, ma anche dalla preoccupazione di quello che dava ai propri figli. E quindi quando uno comincia a interrogarsi su quello che c'è nel cibo, su quello che c'è nel dentifricio, su quello che c'è in moltissimi dei prodotti che usi, forse il farlo è anche un modo di riprendere il contatto, anche coi sapori. Con... E tra l'altro, prima di tutto un'altra cosa, ognuno lo può fare al suo livello, cioè non è che tutti devono fare come Stefania Rossini, che fanno tutto da sole, il pane, hanno l'orto, fa la pizza, i vestiti glieli dà qualcun altro, eccetera. Si può anche vivere una vita normale decidendo però di fare alcune cose in casa, risparmiando semplicemente per non andare incontro a quella serie di spese che diciamo prima, che poi alla fine del mese ci mettono. Ma questo è il punto fondamentale ed è quello che mi ha spinto a fare proprio questo viaggio. Cioè, non esiste un modello valido per tutti, un qualcuno da imitare, esistono degli esempi di vari tipi, quindi c'è il manager, c'è la casalinga, c'è quello, c'è quell'altro. L'importante è che ognuno di noi riprenda a mettere al centro il senso le proprie vere esigenze, il senso di ciò che vuole. E l'altra cosa è il non sentirsi solo, che è un altro grande tema. Lei era, si sentiva l'unica in quel contesto, no? Magari quando scopri che ci sono migliaia di persone che la pensano come te, ti aiuta molto. E tra l'altro devo dire che su questo stile di vita della decrescita, di cui per esempio anche Beppe Grillo è uno di quelli che lo ha portato a tematica nazionale sicuramente per primo, con questa forza negli ultimi anni, a me ha fatto una certa impressione quando quest'estate al Festival dell'Economia di Trento a assistere alla conferenza di Serge Latouche, che è l'ideologo, diciamo, dal punto di vista sociologico e dal punto di vista economico di queste teorie della decrescita. Ha fatto una conferenza stampa ascoltatissima, la più ascoltata di tutto il Festival dell'Economia di Trento, dove c'era il Gotha, c'erano anche i ministri, c'era Passera, c'erano più persone a sentire Latouche che parlava di aggiustarsi calzino, perché questo è il concetto, che a sentire Passera. Cioè la sostanza è che a Passera forse, non dico non li crede più nessuno, ma non a lui, al ministro che dà le ricette per la crescita. Invece tutti si rendono conto che bisogna andare ad ascoltare Latouche. Tutti tranne la maggior parte dei media e dei politici. Oddio, ecco. C'è Latouche, c'è Maurizio Pallante, c'è i Comuni Virtuosi, ci sono tantissime sempre esperienze. Sempre colpa dei giornalisti alla fine. No, io sono giornalista, però di un certo modo di fare giornalismo sì, ovviamente non bisogna generalizzare, no, però è vero che non viene raccontato. È una consapevolezza che sicuramente sta crescendo, però fatica a condensarsi in qualcosa di istituzionale a livello di politiche, di governo e anche di giornali importanti, di giornali di riferimento. Cioè io quello che posso dire con una certa certezza è che c'è un pezzo d'Italia molto consistente che non esiste, non viene raccontato, non viene rappresentato. Il tema per esempio del referendum sull'acqua è stato clamoroso, cioè, ci se ne è accorti l'ultimo giorno, eppure 27 milioni di persone erano sensibili a quel tema. Tra l'altro sul tuo sito ho visto, avete messo in primo piano la notizia di Reggio Emilia, dove è forse il primo comune dopo quel referendum si sta procedendo. Ora, se sia il primo non credo. Loro dicevano così, ma insomma, a fare che cosa? Forse delle Emilia-Romagna. 30 secondi, poi chiudiamo. A ripubblicizzare l'acqua, cioè a rispondere all'esito del referendum e quindi a rimettere in mano pubblica la gestione del servizio idrico. Facciamo una pausa, l'ultima per questa puntata in cui stiamo viaggiando con Daniel, che sta conducendo questo viaggio, l'italiachecambia.org. Adesso faremo un passettino in avanti perché vedremo come questi temi di sostenibilità e anche di decrescita possono, per esempio, andremo in Sardegna con il caso incredibile, non voglio anticipare nulla, dove si riesce però anche a realizzare, a fare impresa e a dimostrare che tutto questo può farci fare anche uno scatto in avanti, anche in quei termini più conosciuti, più noti, più a noi più familiari, che sono quelli dell'impresa, dell'occupazione e anche, diciamo, del PIL. Va, traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Daniel Tarozzi, con cui oggi stiamo facendo una puntata speciale, puntata di fine anno, e stiamo così affrontando questa prima parte del viaggio, perché poi ci saranno altri 3 mesi, insomma li racconteremo anche qua dai microfoni di Si può fare. Tu mi hai detto prima di fare questa intervista che uno dei luoghi che ti ha colpito di più, delle regioni che hai visto, è stata la Sardegna. Sì, assolutamente. Perché? Sì. Ma forse molto dipende anche dalle aspettative che uno ha, cioè io ovviamente sapevo che la Sardegna era bella. Beh. Ma non sapevo che fosse una regione ricca di un fermento incredibile, appena sotto la superficie. Anche qui della Sardegna si parla molto poco e quando se ne parla è quasi sempre per il mare o per l'Alcoa, le vicende insomma delle aziende che rischiano di chiudere. Però c'è tutta un'altra storia, no? C'è tutta un'altra Sardegna che non viene rappresentata. E forse neanche i sardi stessi lo sanno, ma quello che mi ha colpito è che ho trovato in tutta la Sardegna, l'ho girata veramente in lungo e in largo, tantissimi esempi di consapevolezza. Cioè in qualche modo potrei dire che ho trovato una delle regioni dove la consapevolezza è più diffusa. Chiaramente non dico che tutti oggi sono... Cosa intendi quando... Vabbè, abbiamo alle spalle quasi insomma 40 minuti di chiacchierata, però per consapevolezza... Sì, scusa, io intendevo consapevolezza di questi temi, ovviamente, sì. Quindi diciamo della responsabilità che noi abbiamo nel nostro impatto sia sull'ambiente che sull'economia e sulla salute, quindi su il nostro futuro, certo. Che oggi non si può più separare economia, ambiente e salute, secondo me. E quello che mi ha colpito, ecco, che ho trovato tantissime iniziative di persone di diverse età legate sia all'imprenditoria di altro genere, sia a un altro modo di coltivare, iniziative di agricoltura sinergica, c'era l'incontro di permacultura, ok, sono cose adesso, forse non c'è il tempo di approfondirle, però chi segue un po' questi mondi non può che rimanere stupito di trovare in una regione tutte queste cose portate avanti di più che magari nel Lazio. La permacultura mi interessa adesso, poi magari ce ne parli, perché Che cos'è la permacultura? È sempre difficile ridurla in poche parole, però diciamo che è un metodo di progettazione che nasce dall'agricoltura e poi si allarga all'edilizia e in generale al vivere, che cerca di utilizzare alcuni principi che fanno sì che si investa meno energia possibile e se ne ottenga di più, sia a livello di qualità del cibo, sia a livello proprio di fatica, a livello di soldi, a livello anche di come si costruisce l'azienda agricola piuttosto che un luogo. Cioè sfruttare, io banalizzo così, le risorse naturali, cioè cercare di andare meno possibile contro natura. Non solo, sì, quello è la base. Ma camminare meno possibile in salita. Il principio dell'efficienza energetica portato a sistema in qualche modo. Quindi sia, non so, per esempio io faccio sì che ogni anno il mio orto produca più sostanza nutriente di quella che toglie la terra, ma faccio sì che io che devo curare della terra piuttosto che degli animali, piuttosto che anche un'azienda, lo faccio nel modo meno faticoso e più efficiente anche a livello economico, cioè da tutti i punti di vista. È un po' difficile veramente ridurlo perché è un... Visualizzarlo anche, sì, magari, e poi sì, soprattutto per chi come noi è a digiuno completamente di tutto quello che è lavoro nei campi o cose di questo genere, almeno io parlo per me personalmente, no, tranne qualche sporadica esperienza piacevole ma molto sporadica, sono completamente a digiuno. Ma visto che siamo in Sardegna, l'abbiamo anticipata, una persona che ha incontrato Daniel nel suo viaggio, ma che avevamo incontrato anche noi, qua si può fare, è che diciamo è stata sicuramente tirata fuori come storia da Ermete Realacci, credo, nel suo ultimo libro, è la storia di Daniela Ducato, un'imprenditrice sarda che, partendo proprio dal concetto di sostenibilità, di attenzione all'ambiente, di non sprecare, lei non vuole che si usi la parola la parola avanzi, ma vuole usare la parola, se non ricordo male, eccessi di produzione, no? Per non dire cose che non, gli scarti, ecco, lei non vuole usare la parola scarti, però proprio dagli scarti della pastorizia e della lana lei ha costruito un sistema incredibile, un network di imprese. Adesso poi Daniel l'ha incontrata dal vivo e ce la racconterà meglio, nel settore dell'edilizia ma anche alimentare e ultimamente anche della nautica. È una donna che ha una forza straordinaria. Sentiamo un pezzetto dell'intervista e poi di nuovo con Daniel. Allora, siamo partiti utilizzando, ed è un po' tutta la nostra filosofia imprenditoriale, è quella di utilizzare quello che già c'è di disponibile, di eccedente, cioè vuol dire che ce n'è tanto, è sotto i nostri piedi. Qui noi abbiamo un paesaggio che è fatto di pecore, abbiamo 5 pecore per abitante e la Sardegna ha il 65% del patrimonio di pecore di razza appunto sarda di tutta l'Italia, perché è una razza molto produttiva, quindi molte pecore che noi vediamo anche nel resto d'Italia sono di razza sarda. E ha una particolarità, una lana molto grossa, è la fibra di razza ovina più grossa, cioè più spessa, più grossa di tutto il mondo, tra tutte le razze ovine del mondo, che diciamo non ne fa un ottimo materiale per il tessile, ma ne fa un ottimo materiale per fare i cappotti per le case. E di lana, materiali per l'edilizia dalla lana, e di latte, materiali sempre per l'edilizia, pitture, intonaci, con gli scarti del latte e del formaggio addirittura. Allora sì, sono le sottolavorazioni del latte di pecora che diventano formaggio, quindi le scotte, i sieri, che sono tra l'altro dei rifiuti fortemente inquinanti, quindi necessitano di essere chiaramente bonificati con una spendita ovviamente di denaro, ma soprattutto di ambiente. E invece noi li riutilizziamo nelle pitture, nelle vernici. L'avete sentita, Daniela Ducato, anche dal tono della sua voce, è una donna che ha un'energia notevole, straordinaria. Qua di lezioni ce ne sono tante. Tu intanto cosa hai visto arrivando lì alla scoperta di questa impresa nata da cosa? Anche qui è stata veramente una grande sorpresa. Quello che ho visto era una donna, in senso bello del termine, normale, cioè una persona normalissima che tra l'altro... per molti anni della sua vita non aveva fatto nulla del genere. Lei ha studiato musica o canto, adesso non ricordo, con una formazione totalmente diversa. Aveva il marito che si occupava di edilizia. Un bel giorno, appunto, osservando dei nidi di uccello, ha avuto questa idea di di imitare la natura e di imitare i processi nella natura. Perché gli uccellini prendevano questi fili di lana avanzati per fare i loro nidi. Perché evidentemente loro, avendo un istinto forte, lo usavano perché erano molto molto termoprotettivi, insomma, esatto, isolanti. Ancora una volta si vede come la natura non sia un tema solo di nicchia, ma che se noi la osserviamo e la studiamo possiamo ottenerne grandi risultati anche a livello imprenditoriale, economico, di qualità della vita. Lei praticamente, cominciando a ragionare su questi percorsi, ha messo su una serie di aziende che non solo ottengono di utilizzare appunto quelle, le cosiddette eccedenze, cioè cose per cui bisognava pagare per smaltirla, questa lana, quella che veniva, per esempio, adesso diventa una ricchezza, cioè lei la compra. E questa è una delle cose straordinarie della gestione dei rifiuti, di chi usa questa chiave moderna. I rifiuti diventano risorse, esatto. Infatti chi si occupa dei rifiuti non sopporta il termine rifiuti, perché è un'invenzione moderna il rifiuto. Fino a 100 anni fa di fatto non esisteva. Ma non solo, la cosa bellissima è che lei è riuscita a creare un network sardo che ha tenuto dei posti di lavoro in Sardegna, perché stavano chiudendo delle aziende, si sono riconvertite a questo metodo, per cui lei ha messo su il processo, dopodiché si è appoggiata anche su una serie di passaggi della filiera e quindi si sono mantenuti i posti di lavoro, forse se ne sono creati addirittura di nuovi, e si è creato un qualcosa che aiuta a costruire case in Sardegna con materiali legati al territorio sardo, evitando di mandare le navi su e giù e per una volta tenendo la ricchezza in quella terra, perché un grande problema della Sardegna è che spessissimo le ricchezze vengono portate via veramente con un approccio quasi colonialista, cioè le aziende italiane arrivano, prendono le prendono le ricchezze sardegne e le portano nel cosiddetto continente. E invece di lana e di latte, insomma, le imprese di Daniela Ducato dimostrano che il territorio, la contestualizzazione in una certa zona geografica è fondamentale, perché quelle imprese non avrebbero potuto nascere altrove, quelle lì proprio, che lì dove sono nate. Così, giusto per riprendere alcuni dei concetti che fanno parte del tuo viaggio e che possono anche incuriosire. Noi, leggendo qua sul tuo blog, possiamo trovare parole tipo transition town. Che vuol dire? Guarda, proprio ieri ero a Monteveglio, che è la prima transition town italiana, poi ne sono partite molte altre, ma è quella, diciamo, che è partita per prima. Ed è una grande esperienza, secondo me. Le transition town nascono in Inghilterra, a Totnes, anche qui cerco di ridurre in poche parole, comunque dall'osservazione che il cambiamento del clima e il picco del petrolio, che ovvero quando il petrolio costa troppo rispetto a non diventa più conveniente produrlo, mettevano in seria crisi questo sistema. Loro diversi anni fa hanno detto: che facciamo, aspettiamo che crolla tutto o cominciamo a prepararci a una società che non sia più basata sulle fonti fossili senza dover tornare alle caverne? Prepariamoci, entriamo in transizione, consapevoli che non esisteva la soluzione, nessuno ce l'ha, ma anche consapevoli che se si comincia forse si va verso... Prima o poi da qualche parte si arriverà. Ed essendo inglesi, essendo pragmatici, hanno messo su un metodo, un manuale, che poi si è esploso in tutto il mondo e anche in Italia, e che fa sì che diverse città italiane si mettano in questo cammino. Parte da un'iniziativa che parte dal basso, da pochi cittadini che in genere nel giro di pochi mesi, anni, riescono a influenzare l'intera comunità. Veramente un esempio da imitare. Beh, ce ne sarebbero tante di cose a dire. Della permacultura abbiamo parlato, concetti e anche le nuove tendenze, noi diciamo sempre all'inizio del programma, che ci salveranno. Le trovate sicuramente sul blog di Daniel Tarozzi, dillo tu il nome bene così. italiachecambia.org. Andate, informatevi, vedete, perché ci sono tante tante cose che non siamo riusciti a dire oggi, che sono interessantissime, importantissime. Daniel ha messo se stesso in ballo per quanto tempo complessivamente? Saranno 6 mesi? 6 o 7, sì. Beh, insomma, non è una cosa da poco che capita in Italia raramente. Ci sarà anche un libro alla fine. Sì, uscirà un libro. Vai a parlarcene qua sicuramente più avanti. Molto volentieri. Grazie, è tutto per ora. Auguri, perché siamo naturalmente in una fase di alta densità di feste. Da Alessio Maurizi l'augurio di buone feste. Io ringrazio anche Franco Piantanini in redazione e Fabio Cantadori in regia. A presto!